Ed eccoci alla quarta lezione del corso Chumash, del corso con il Torah a Roma, e siamo arrivati al punto in cui, come abbiamo visto nella scorsa lezione, Avram e Sarah con il nipote Lot sono tornati su dall'Egitto verso la terra di Canaan, la futura terra di Eretz Israel, di Israele. E la nostra lezione oggi sembra che si occupi di una persona marginale, diciamo, nella storia di Avram e Sarah, però poi marginale sembrerebbe sia stata solo fino a questo momento. Da questo momento assume un ruolo centrale, ma è davvero così? Vediamo. Cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Lot e vediamo innanzitutto i versetti che saranno citati nel corso di questa lezione. Come le altre volte, leggeremo innanzitutto tutto il brano della Torah, che parte questa volta dal capitolo 13, versetto 5, sempre nella parasha di Lech Lecha, e, capitolo 13, verso 5, e qui leggiamo: Vegam lelot haolech et Avram, e anche Lot, che andava con Avram, Hayatzon uvakar ve'ohalim, anche lui possedeva gregge, bestiame e tende. Velo nasa otam haaretz lashevet yachdav. Ora inizia il dramma. Il paese non poteva fornire o non poteva supportare loro perché abitassero insieme, nel senso non c'erano pascoli a sufficienza, come approfondiremo. Chi ayare husham rav lo yachelu lashevet yachdav, essendo i loro beni abbondanti, non potevano risiedere insieme. Al versetto 7 leggiamo: Vayehi riv. Il dramma si intensifica in quanto Vayehi riv, ci fu una lite. Ben roe mikne Avram u ben roe mikne Lot, ovvero la lite accadde fra i pastori del gregge di Avram e i pastori del gregge di Lot. Ve ha kenani ve ha perisi as yoshev ba'aretz. La Torah ci fornisce un'informazione generale che approfondiremo più avanti. I cananei e i perisei risiedevano allora nel paese. Versetto 8. Vayomer Avram e Lot. Avram disse a Lot: Alnatei miriva beni uvenecha, uven roai uven roecha. Per favore, non ci sia lite alcuna tra me e te, tra i tuoi pastori, tra i miei pastori e i tuoi pastori. Ki anashim achim anachnu, poiché siamo parenti. Versetto 9. Haloch ola aretz lefanecha hi. Non hai forse dinanzi a te l'intero paese? Hi paredna me alai. Quindi, per favore, separati da me. E decidi tu, Avram gli dice i termini di questa separazione, puoi decidere tu la direzione e io sceglierò quella opposta. Ima semol veimina, vima yamin veasmeila. Se andrai a sinistra, io andrò a destra, e se tu andrai a destra, io andrò a sinistra. Versetto 10 dice quindi: Vaisalot et einav, Lot alzò gli occhi, vayar et kol kikara yarden, e vide tutta la pianura del Yarden, cioè del Giordano, ki hula mashke, che era interamente irrigata e fertile. Lifnei shachet Hashem et Sedom vet Amora. La Torah apre una parentesi dicendoci che questo accadde prima che Hashem distruggesse Sedom e Amora, Sodom e Gomorra. E quindi era una zona estremamente bella e fertile, che viene descritta con le seguenti parole: che Gan Hashem che Eretz Mitzrayim Boacha Zoar, simile al giardino di Hashem, come il paese d'Egitto fino a Zoar. È una descrizione che vuole dirci quanto era fertile e bella questa terra. Versetto 11, Vaivcharlo Lot, e Lot quindi scelse per sé, et kol kikara Yarden, tutta la conca dello Yarden, vaisa Lot Michedem, e partì via verso l'oriente, vaiparedu Ishme Alachiv, e si separarono l'uno dall'altro. Versetto 12. Avram Yoshev Yashav Be'eretz Kenan. Avram risiedette in terra di Kenan. Velot Yashav Be'area Kikar Vayeal Ad Sedom. Lot risiedette nella città della conca, nelle città, scusate, nelle varie città che c'erano in quella pianura. Lui girava da una parte all'altra, piantando le tende fino a Sedom. Ora la Torah apre una parentesi sulla popolazione di questa città di Sedom, cioè Sedom era la città più lontana, l'ultima città di questa zona. E quindi dice, piantò le tende fino a Sedom, e approfondiremo più avanti. Ma la Torah appunto apre una parentesi su questa popolazione di Sedom e ci dice al versetto 13, Vai veancei Sedom ra'im vechataim l'Hashem me'od. Gli uomini di Sedom erano molto malvagi e peccatori verso Hashem. Ok, ci fu la separazione tra Avram e Lot. Ora prossima fase. Vashem amar el Avram. Il Signore disse ad Avram, Acharei hipared Lot me immo. Dopo che Lot e si era separato da lui, Sana enecha ure'e, per favore alza gli occhi e dal luogo in cui ti trovi guarda, ure'e mina makom asher ata sham, guarda dal luogo in cui ti trovi, tzafona vanegba vakedma vayama, guarda il settentrione, il meridione, l'oriente e l'occidente, ki et kol ha'aretz asher ata ro'e lecha etenenna, perché guarda, perché tutta la terra che vedi a te la darò e alla tua posterità ulezarachà ad alom, ad olam, per sempre. Quindi qui la promessa del dono della terra che diventerà Eretz Israel, del dono della terra ad Abraham. E il versetto 16 prosegue in questa promessa, Vesamti et zarachà kafar aretz. Renderò la tua posterità abbondante quanto la polvere della terra. Asher im yuchal ish limnot et afar haaretz, fino al punto che se un uomo potrà mai contare la polvere della terra, a gam zaracha imane, anche la tua posterità si potrà contare, si conterà. Quindi la benedizione della terra e la benedizione della dell'abbondanza, diciamo così, nella sua posterità, nella sua discendenza. E al versetto 17, Cum, alzati, hitalech ba'aretz, percorri la terra, leorka ulrochba, in lungo e in largo, chi lecha etenena, poiché a te la darò. E il versetto conclusivo di questa parte dice, Vayeal Avram, Avram piantò le tende, Vayavò, e tornò, venne, giunse, Vayeshev Beilone Mamre, risiedette nelle pianure di Mamre, Asher Bechevron, che si trovano a Hevron, e lì Vayivensham Mizbeach Lashem, lì proseguì nella sua opera di servizio di Hashem e costruì lì un altare per il Signore. Ora, leggendo tutta questa storia solamente in maniera così, vedendo i versetti e la traduzione, subito ci accorgiamo che ci sono molte cose da chiarire e da cercare di capire un pochino più approfonditamente. E chiaramente ci aiuta la Torah orale, ci aiutano i Midrashim, ci aiutano i Mefarshim, i commentatori. Vediamo un po'. Allora, chi è Lot? La Torah apre la storia dicendoci che anche Lot era un possessore di beni, di terreni, di gregge e così via. Lot, come ci ricordiamo dall'inizio della parasha, Lot era un nipote di Abraham, figlio del fratello Haran. Haran era morto giovane, ci ricordiamo anche la storia e l'accaduto. E Abraham e Sarai adottano il nipote Lot, che era appunto era orfano di padre. Ora, Lot si unisce ad Avram in tutti i suoi percorsi, in tutti i suoi viaggi. Ma che tipo di persona era Lot? Questo ci chiediamo e qualche risposta ci è già stata fornita. Quando si pensa a Lot, tradizionalmente si pensa ad una persona non molto forte di spirito, nel senso di moralità, non così corretta necessariamente. E quando c'è il bisogno di mettersi o dalla parte dei buoni o dalla parte dei cattivi, non è chiaro e sembra che Lot sia spesso da parte dei cattivi, per così dire. E quindi chi è questo Lot esattamente? Un'altra domanda che ci poniamo è: se la Torah è interessata a parlarci di Lot, la domanda è se la Torah ci vuole raccontare di Lot o la Torah ci vuole raccontare qualcosa di Avram che avviene attraverso il racconto con Lot, che viene alla luce attraverso il racconto con Lot. In realtà vedremo che la Torah qui ci sta parlando più di Avram che di Lot, ma noi vedremo che forse Avram, dopo questo episodio importante con Lot, cambia, diventa un altro Avram, diventa qualcosa di più profondo. Vediamo un po'. Nel versetto 5 che abbiamo letto, se torniamo un attimino indietro, vediamo che appunto Lot era anche lui diventato un possessore appunto di beni, diventato una persona benestante e ricca. Ma in che maniera è diventata una persona ricca? Questo è alluso nelle parole del versetto, quando il versetto dice: anche Lot, che andava con Avram, era un possessore di molti beni. In altre parole, qui la Torah ci sta alludendo a noi la motivazione. Come arrivò Lot a diventare importante in questo senso? Il fatto che lui accompagnava Avram. È per Avram che anche Lot diventò importante, e non per una sua importanza personale, sua propria. Questo lo vediamo abbastanza alluso chiaramente nelle parole della Torah, ma anche per citare il commento di Don Yitzhak Abarbanel, che scrive che la Torah ci indica le Lot Olechet Avram, Lot che andava con Avram, proprio per dire: non c'è un altro Lot, non è che la Torah ci sta cercando di descrivere di quale Lot stiamo parlando. Lot conosciamo solamente un Lot, è quello. La Torah ci dice questo per dirci che la benedizione che Lot trovò nei suoi affari e nei suoi beni non era appunto per un proprio merito, bensì proprio perché era con Avraham. E dalla Berachah, diciamo, da questa benedizione che è stata elargita dall'alto verso Avraham, anche Lot ne ha beneficiato, ne ha tratto beneficio. E allora, cerchiamo di capire. Lot quindi diventa un grande possessore di beni e subito scatta la lite. Qual è la causa di questa lite? La Torah non lo dice esplicitamente, ma lo si può capire dal contesto. Chi è che litiga? Chi è che discute? Discutono i pastori di Lot e i pastori del gregge di Avram. Ok, quindi qual è il problema? È abbastanza evidente, come spiega il Ramban e altri commentatori, molti altri commentatori, che la discussione riguarda la scarsità del pascolo. Entrambi hanno molti animali, molte bestie che devono pascolare, hanno del gregge di alto numero, di grande importanza, e hanno bisogno di terreni per il pascolo, e questo scarseggia. Perché? prima di tutto la Torah diceva che Naniva Perisi, Asio Shevares, cioè quella parentesi che la Torah ci ha detto, una notizia politica che i Cananei e Perisei vivevano allora nella terra, è per dirci che per questo motivo scarseggiava la terra per persone come Avram che erano venute da poco, quindi anche per Lot. Ma non per raccontarci di una semplice lite su queste questioni, la Torah ci racconta questa storia. C'è qualcosa nel sottofondo che è ancora più importante. E forse questo è il motivo per cui la Torah ce lo racconta. Sentiamo le parole del Midrash. Il Midrash dice, ma perché davvero stavano discutendo gli uni con gli altri? Il Midrash dice che se Adam tzadik, af benei beito ke moto tzadikim. Quando una persona è giusta e si comporta bene, anche i membri della sua famiglia allargata, si intende anche i suoi, in quel caso, schiavi o impiegati, eccetera, si comportano anche loro in maniera giusta. Mentre al contrario, quando una persona è rasha, quando una persona è malvagia, anche chi va con la persona si comporta male. E il Midrash dice, che differenza c'era nel comportamento, in particolare nel contesto del pascolo? Dice il Midrash, le bestie di Avraham venivano portate fuori, magari per andare da un posto all'altro, per andare verso dei terreni dove Avraham era o il possessore o aveva il permesso di pascolare per il suo gregge lì. Allora uscivano le bestie, venivano messe con la museruola o in qualche altra maniera per assicurare che non pascolassero e non mangiassero l'erba di altri terreni, di proprietà altrui. Mentre invece, per ciò che riguarda quelli di Lot, i pastori di Lot non facevano questo per le bestie di Lot. E allora i pastori di Avraham dissero ai pastori di Lot, perché mettete in cattiva luce il vostro padrone, il vostro datore di lavoro, Lot, facendo uscire le sue bestie senza una museruola? Allora, cioè, in altre parole, Lot andava con Avram, ha detto la Torah, ma non andava come Avram. Era con Avram, ma non imparava da Avram. Scusate, il Midrash prosegue e dice, ma una risposta sorprendente nella bocca, il Midrash mette nella bocca dei pastori di Lot, che avrebbero risposto così: siamo noi che ce la prendiamo con voi, che voi mettete sì il limite agli animali di mangiare in alcuni luoghi, perché evidentemente lo fate per un altro motivo, per non nutrirli bene. Perché? Perché evidentemente c'è qui tutto un pensiero negativo dietro a questo atto. E qual è? Visto che Avram non ha figli, l'unico erede è il nipote Lot, e non va d'accordo, non vuole che Lot erediti così facilmente tutti i suoi beni un giorno, e allora cosa fa? Non fa nutrire bene le sue bestie, così quando cadranno in eredità a Lot non avranno tutto questo valore importante. Incredibile. Quindi questa sarebbe stata l'idea dei pastori di Lot a rispondere ai pastori di Avram: non fatevi così importanti e giusti, perché andate a rubare l'erba di altri, eccetera. Ma noi sappiamo la verità. La verità è che Avram è risentito dal fatto che non ha i propri figli e lo erediterà il nipote Lot. E allora dice, vabbè, non dobbiamo investire così tanto e cibo, eccetera, nutrimento per questi animali, perché alla fine tanto non rimangono nella mia famiglia diretta, vanno a Lot. Ora, i pastori di Lot, di Avram, cosa avrebbero risposto? Scusate, i pastori di Lot, davanti alla domanda dei pastori di Avram, ma voi state rubando, Che significa? Vi siete inventati questo discorso, questo progetto maligno nella mente di Avramo, eccetera. Ma voi cosa potete rispondere al dato di fatto? Cioè il fatto che le vostre bestie stanno mangiando da campi altrui. Cosa se ne fa di questo? Qui risponderebbero i figli, i pastori di Lot. Che vuol dire? Questa è la terra che è stata promessa ad Avram. Un giorno sarà di Avram. E chi erediterà Avram? Lot. Allora la stessa cosa. E in realtà è già nostro questo. Come se fosse nostro. Non siamo dei ladri. Semplicemente per il momento ancora non appartiene ufficialmente a noi. Però questa è la terra che il divino ha promesso ad Avram. E Lot è l'erede di Avram. E quindi qui possiamo fare quello che ci pare. Allora, tutta questa storia che abbiamo letto nella Torah della lite tra Avram e Lot, ora il contesto della storia è totalmente diverso da un semplice discorso di una lite su un pascolo o su come vengono trattati gli animali. Qui il vero punto che qui esce fuori alla luce è che Lot si vede come l'erede di Avram, il futuro erede di Avram. Lui sarebbe nella sua visione il futuro erede di Avram e quindi già si prepara come se fosse lui il possessore di tutto ciò che appartiene ad Avram. Ora questo è molto bello, ma dov'è alluso nelle parole della Torah? E il Midrash dice, è alluso molto chiaramente. Nelle parole che ho citato prima, Ve'akenani va'perisi az yoshev ba'aretz, che... Perché la Torah inserisce qui questa notizia politica che i Perisei e i Cananei erano allora coloro che risiedevano nella terra? Il Midrash dice, visto che discutevano e litigavano di quello che appunto abbiamo detto, allora Kadosh Baruch Hu disse, Aknani va Perisi as ba'aretz. Chi c'è nella terra in questo momento? I Cananei e i Perisei. Per quanto riguarda la promessa che io ho detto ad Avram che gli darò la terra in futuro, a chi darò la terra? Ho detto ai suoi figli, ai figli di Avram, non a questo malvagio, non a Lot. E anche, e i Matai, a quando mi riferisco, a che momento nella storia mi riferisco quando dico che la terra sarà di Avram o dei suoi figli? Dopo che non ci saranno i Cananei e i Perisei? Ora che i Cananei e i Perisei sono nella terra, ancora è riconosciuta da me come la loro terra. Un futuro, un giorno, per i futuri figli di Avram diventerà la loro terra e prenderanno il posto dei Cananei. Ma ora, per il momento, Avram ancora non ha figli. Per il momento i possessori della terra legittimi sono i Cananei e i Perisei. E voi quindi che scusa avete per comportarvi in questa maniera? E allora questa, diciamo così, tra virgolette, guerra civile tra fratelli, nella famiglia stessa, tra Avram e Lot, è qualcosa che può danneggiare entrambi, perché diventano deboli, non hanno una fronte unita e coloro che si trovano nella terra, i Cananei e così via, potrebbero vedere in questi nuovi possessori di beni e di terre una minaccia e nel momento della debolezza di questa lite tra di loro potrebbero in qualche maniera fargli del male o recargli dei danni. E allora il Ramban dice, proprio su questo versetto, che quando la Torah dice i Cananei e i Perisei erano allora nella terra, dice il Ramban, Avraham, perché la Torah ci dice questo? Perché per dire che Avraham aveva il timore che questa notizia di questa lite arrivasse a tutti i popoli nei dintorni, di quanto loro erano possessori di beni, di quanto avevano molto gregge, eccetera, e sfruttando la loro debolezza a causa della lite, potrebbero venire e fare una strage, potrebbero fare un massacro e rubare tutto, potrebbero in qualche maniera comunque, anche se non fino a questo punto, potrebbero cacciarli via dalla terra con più facilità. E allora Avraham ha detto, bisogna fermare questa lite. Come dice il Sforno, visto che noi siamo Geirim, I noi vuol dire noi, Abramo e Lot. Siamo comunque stranieri in questa terra, siamo giunti da breve tempo in questa terra. Una lite tra di noi ci mette in una cattiva luce davanti a tutti quelli che della terra, perché se litigano tra di loro, sicuramente inizieranno a litigare anche con noi. Facciamola finita, sbarazziamoci da questi nuovi arrivati. Così potrebbero dire quelli della terra. Calva Homer, a maggior ragione, se litigano tra di loro, dice il rabbio Ovadia Sforno, il commentatore italiano, inizieranno a litigare anche con noi. E allora Avram arriva alla conclusione che è arrivato il momento della separazione tra lui e Lot. Avram Avinu spiega: non vogliamo arrivare al versetto 8, dice: non ci sia una lite tra me e tra i nostri pastori e tra i miei pastori e i tuoi pastori. In altre parole, sembra che la lite si sia scaturita prima tra i pastori. Allora Avram usufruisce di questo e dice: bene, io e te non stiamo litigando, io personalmente con Lot personalmente. Però il litigio che avviene ora tra i nostri impiegati potrà poi allargarsi e giungere anche nel nostro rapporto personale. E quindi questa è una cosa che vorremmo evitare. Di conseguenza è bene che ci separiamo. È bene a volte, per mantenere la pace, è bene mantenere una certa distanza. Proprio per mantenere la pace. E Avram dice: se tu vai a destra, a sinistra, io vado a destra. E se tu vai a sinistra, e se tu vai a destra, io vado a sinistra. Cioè, a parte il senso letterale, quando la Torah dice tu vai da una parte, io vado dall'altra, non gli sta dicendo noi non ci vedremo più. Infatti ha detto che Anashim Achim Anachnu, noi siamo fratelli. Da una parte la frase noi siamo fratelli può voler dire: com'è possibile che fratelli litighino tra di loro? Dall'altra parte, e quindi ci dobbiamo separare, dall'altra parte il fatto di dire noi siamo fratelli è per dire: nonostante la separazione eventuale che adesso accadrà, adesso si realizzerà, nonostante questo siamo fratelli. Nonostante questo, io comunque sarò un supporto per te qualora tu lo dovessi, qualora tu dovessi aver bisogno di questo mio supporto. E questa cosa sarà provata nel tempo, in ben due occasioni importanti in cui il Lot aveva bisogno dell'aiuto di Avram, come vedremo più avanti. Allora a questo punto non c'è scelta, bisogna separarsi. E Lot accetta la proposta di Avram di scegliersi un posto per sé e vede tutta la zona della pianura intorno al Yarden, al Giordano, che appunto, come dicevamo prima, era all'epoca una zona estremamente fertile e bella, verde, con molta acqua, molte zone adatte al pascolo. Cosa che non sarà sempre così, perché dopo la distruzione di Sedom diventerà una terra arida, deserta e così via. E così Lot si sceglie quella zona e parte, va Michedem dall'Oriente. In realtà il senso più semplice, anche se la Torah usa il termine mi, da, si intende dire verso l'Oriente. Anche se Rashi non è d'accordo, ma molti chiedono qual è il senso di quanto dice Rashi, perché se guardiamo la mappa, tecnicamente Lot va verso Oriente, cioè verso la zona del Yam HaMelach, verso la zona del Mar Morto. E Avram quindi si trova dove la Torah dice, il versetto 12, Avram Yoshev Beretz Kenan, Avram si sceglie. Dopo la scelta di Lot, Avram rimane nella parte della terra di Canaan, cioè non è limitato a un determinato punto. Oltre la zona scelta da Lot, Avram è libero, secondo gli accordi, di spostarsi in tutta la zona di Canaan, tutta la zona della terra di Canaan, e Lot si sceglie quella zona fertile della pianura del Giordano e si fa sentire la sua presenza fino a Sedom, cioè fino alla parte più lontana di quella pianura. Il termine Michedem, dall'oriente o verso l'oriente, Rashi fa presente che c'è qui anche un'allusione. Siamo nel mondo del Remes, nel mondo delle allusioni, non nel significato semplice, che la Torah sta alludendo qui che Lot è partito, non solamente ha fatto una separazione geografica da Avram, ma anche morale. Kedem ci ricorda la parola Kadmon. Kadmon è il primo in assoluto, quello che sarà sempre il primo. E non c'è stato nulla prima di quel primo, e cioè HaKadosh Baruch Hu. Kadmono shel Olam, colui che è il primario, ha preceduto tutta l'esistenza. L'esistenza primaria, se vogliamo. L'esistenza di HaKadosh Baruch Hu. Quando lui va via, Mi Kedem significa si separa da quella realtà. Si separa dal livello morale che in realtà non era totalmente rientrato ancora, ma quando stava con Avram ancora, come si dice, era tenuto ad un certo tipo di comportamento. Ora si sente libero da questo. Ora si sente libero di dire io farò come mi pare, ed ecco perché la Torah dice subito, quando parla di Sedom, che tipo di persone erano quelle che abitavano nella zona di Sedom e nella città di Sedom, che erano persone malvagie e corrotte, e Lot scelse proprio quella zona lì. Una persona giusta si allontana da persone corrotte e malvagie. Lot evidentemente non è così lontano da quel comportamento. Oppure, anche se il comportamento della popolazione, dei cittadini di Sedom, non è proprio il suo, ma neanche è tanto lontano da questo. Perché erano così malvagi la gente di Sedom? È legato al fatto della fertilità della terra, della ricchezza. La loro malvagità si esprimeva soprattutto nel loro modo di comportarsi con persone che non erano del luogo, perché sarebbe stato facile sfruttare il bene, il benessere, la fertilità di quella zona, e quindi hanno imposto delle regole molto forti e anche molto molto cattive, come descrivono i Midrashim, nei confronti di qualsiasi persona che non era del luogo, teoricamente per proteggere i propri beni o i beni del luogo, però portato in una maniera molto esagerata nella corruzione, nella malvagità. E Lot, come abbiamo detto, non si è tirato indietro dall'andare a risiedere proprio in quella zona, e quindi questo, come dice Rabbeinu Bachye e altri commentatori, ci dice quanto era, cosa c'era nella mente di Lot, nel cuore di Lot. Non allontanandosi da quel tipo di persone, Lot dimostra che tipo di persona lui è. Quindi questa separazione, per concludere questa parte, questa separazione non è solamente una separazione geografica, ma è una, se si può dire, è una separazione morale. La quarta parte di quanto abbiamo letto, sembra che la storia sia conclusa, c'è stata una lite, hanno fatto la loro conversazione ufficiale, hanno fatto la loro separazione ufficiale, chiusa la storia? No, il brano non è ancora concluso nella Torah. L'ultima parte di questo brano è quanto abbiamo letto della rivelazione divina ad Avraham e la promessa della terra e l'abbondanza della discendenza di Avraham. Perché questo si lega alla storia precedente? La Torah lo dice molto esplicitamente, molto chiaramente, nel versetto 14 che abbiamo letto, e il Signore parlò con Avram dopo che Lot si separò da lui. Non per caso la Torah dice dopo che Lot si separò da lui. È come se dicesse, siccome Lot si separò da Avram, siccome Lot e Avram si divisero, si separarono, allora per questo il Signore si rivelò ad Avram. E qui i Chachamim e i commentatori spiegano che questa rivelazione, Rashi e altri commentatori, questa rivelazione fu meritata da Avraham solo dopo che Lot non è più nei dintorni immediati. Questo ci fa capire che questa storia non è così semplice. Quella discussione, la lite legata al fatto di rubare o prendere cibo altrui, e poi il discorso sotto della eventuale eredità di chi sarà l'erede di Avram e così via, e poi la separazione, questo ci fa capire chi era Lot, dove è andato a finire, qual è il luogo che lui ha scelto, e ci fa capire che Lot in qualche maniera ha limitato la crescita spirituale di Avram. La presenza di Lot ha fatto sì che Avram non arrivasse a livello spirituale alla rivelazione alla quale sarebbe arrivato se Lot non fosse lì. Acharei pared Lot mimo, dopo che Lot si separa da lui. Quindi ecco Avram Avinu che si occupa solo di bene, che si occupa di beneficenza, che si occupa dei poveri, che non fa differenze tra il giusto e il malvagio e così via, perché non poteva vivere con Lot? Se aveva spazio nel suo cuore per tutti, non poteva avere un po' di posto per il suo nipote? In teoria il suo unico familiare, parente vicino nella zona in quel momento? E la risposta è che Avram ha cercato di includere Lot nel suo progetto, ma cos'è successo? Il contrario. Che Lot era con Avram non per stare sotto le ali di Avram, ma in qualche modo per sfruttare Avram. Lot guardava Avram non come un mentore, ma come qualcuno che lui potrà sfruttare e usufruire di quel legame importante che ha con questa persona per il proprio beneficio, per il proprio lucro, per il suo beneficio personale. Allora, in un rapporto così, dove i ruoli sono scambiati e sono capovolti in una maniera tossica, Avram non rimane con alcuna scelta tranne quella di separarsi. Avram ha spazio nel suo cuore per tutte quelle persone, anche forse non meritevoli, ma che comunque capiscono che la direzione di questo rapporto va da Avram verso la persona. E lui quello che dà, e dell'altro quello che riceve. Ma se Lot decide che è lui quello che dà e Avram è quello che riceve, Avram è in qualche maniera uno strumento nelle mani di Lot, allora questa è una cosa che non può andare avanti. E separazione. E questo ce lo indica la Torah in tutta questa storia. E come vedremo, come stiamo vedendo adesso, questa era la cosa necessaria perché Avram giunga a un ulteriore e più elevato livello spirituale di quanto non era giunto fino a quel momento. Ed ecco che ad Avram viene promessa la terra, e nella terra, in questa promessa, viene detto, già c'è stata una promessa in precedente, come abbiamo visto all'inizio della parasha, ma lì non era molto specifica, cioè la promessa non era specifica su che terra esattamente, quale zona, eccetera. Qui invece la Torah è molto più specifica, parla di guardare in tutti i punti cardinali, eccetera, e i Mefarshim dicono, dopo, tra l'altro il sforno, di nuovo, citiamo di nuovo il sforno, dopo che Lot si separò da Avraham e HaKadosh Baruch Hu non promise quella terra in maniera così esplicita e specifica ad Avraham mentre Lot era ancora con lui, perché Lot avrebbe trovato in questo ancora più motivazione per davvero diventare l'erede di Avram, per rubare ancora di più dai terreni nei dintorni, con la scusa che questo ufficialmente è stato promesso ad Avram. Ancora peggio di quanto faceva in precedenza. E quindi questa promessa qui, che HaKadosh Baruch Hu lega alla promessa dell'abbondanza della discendenza di Avram, conclude dicendo, alzati e percorri la terra per tutta la sua lunghezza e per tutta la sua larghezza, è come se dicesse, puoi girare tranquillamente in tutta questa zona perché sarà tua, come se fossi padrone di questo luogo, anche se ancora non lo sei, Kilecha etenena, perché alla fine sarà tua. Così spiega Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanide, spiega in questa maniera. Ma c'è anche di più, i maestri Chachamim dicono nei Midrashim che il senso di percorrere la terra, prima gli dice guarda, alza gli occhi e guarda, e poi gli dice percorrila, e sono come degli atti simbolici di acquisto del terreno, che, del luogo, della terra, che poi più avanti nel tempo sarà anche fisicamente acquistato, entrerà fisicamente in possesso della sua discendenza. E infatti vediamo che Avram percorre la terra per largo e per lungo, è già stato indicato e sarà indicato di nuovo, ed è come se con il suo calpestare quella terra, in qualche maniera simbolicamente acquisisce per il futuro, per i suoi figli in futuro, quella terra. E quindi la Torah ci dice appunto che Avraham pianta la sua tenda e risiede nella zona di Mamre, nella pianura di Mamre, che è accanto a Hebron o a Hebron, e lì di nuovo costruisce un altare, cioè di nuovo crea un punto, un fulcro centrale dal quale si richiama il nome di Hashem, dal quale si annuncia e si porta la popolazione a riconoscere l'unico Dio, a riconoscere il Creatore, che questa è davvero l'opera della vita di Avram. Alla prossima lezione, se Dio vuole.